Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, ben ritrovati. Questo è Nessun luogo è lontano, il vostro osservatorio su tutto ciò che accade al di fuori dei nostri confini. I saluti vi arrivano anche da Antonio Talia, Eleonora Aragona, Silvia Mannati in redazione, Andrea Roccabella in regia. Vi ricordo che potete commentare i temi che trattiamo in queste puntate in Nessun luogo via SMS al 349-238-6666. Il numero vale anche per i WhatsApp. Twitter cercateci Nessun luogo 24 oppure il mio personale Giampaz, e su Facebook la pagina è Nessun luogo lontano trattino Radio 24. Allora, tre giorni fa l'atleta cinese, una nuotatrice, Fu Yanui, ha rotto un tabù, perché dopo aver gareggiato la staffetta dei 4% con la nazionale cinese di nuoto, di fronte alle telecamere ha ammesso: ho gareggiato con le mestruazioni. In India solo il 10-20% delle donne può permettersi di acquistare degli assorbenti e tutto ciò che serve per l'igiene femminile durante appunto il ciclo mestruale. In Kenya, nella regione del Baringo, centinaia di ragazze che hanno raggiunto la pubertà saltano le lezioni scolastiche almeno una settimana al mese. Uno dei motivi principali è che gli assorbenti sono troppo costosi, $1 ogni confezione. La maggior parte dei genitori delle alunne guadagnano $1 al giorno. Un altro motivo è la carenza dei bagni nelle scuole, per esempio figurarsi i bagni separati. Poi c'è l'aspetto economico, considerando che le donne nei paesi in via di sviluppo, rappresentano quasi la metà della popolazione giovane, tutte le restrizioni e i problemi legati al ciclo rappresentano un limite anche per lo sviluppo economico delle comunità di cui fanno parte. E poi c'è tutto l'aspetto più strettamente sociale legato allo stigma, perché vi sono alcune culture in cui in quel periodo la donna è considerata impura. Quali sono gli impatti economici, sociali e sanitari di un mancato accesso agli assorbenti e una mancata educazione sanitaria? E questo è il cuore della puntata, della prima pagina di questa puntata di Nessun luogo è lontano. Le storie che vi raccontiamo saltano tra India, tra continente asiatico e continente africano. E iniziamo con la storia di un'ONG indiana con sede a Bombay, si chiama Dasra, che in hindi significa dare la luce, dare illuminazione. Abbiamo raggiunto Nita Darainani, che fa parte del team di ricercatori. I ricercatori di questa ONG arrivano da svariati background, vi sono importanti università internazionali, dal MIT all'Harvard Business School, Yale addirittura, e oltre naturalmente a università indiane e internazionali. Ebbene, questo team ha realizzato Spot On, che è un rapporto sull'impatto delle mestruazioni sul livello di istruzione e di salute delle giovani ragazze indiane. Abbiamo raggiunto appunto Darainani, e abbiamo chiesto in cosa consistono le superstizioni che colpiscono le donne mestruate nelle aree rurali in India. Sentite. Beh, penso che quando si tratta di superstizioni, in India non parliamo necessariamente di qualcosa confinato nelle campagne. Con un po' di ironia, potremmo dire che in questi atteggiamenti ci sono pari opportunità, dato che colpiscono indiscriminatamente comunità ad alto reddito e a basso reddito, sia nelle aree rurali che in quelle urbanizzate. Quello che accomuna tutti questi settori della società è la mancanza di informazione o la disinformazione sul tema, e tutto ciò non accade solo nelle campagne. Lo stigma consiste nel fatto che durante le mestruazioni le donne vengono viste come impure, e ciò si traduce poi in molti comportamenti concreti. Durante il ciclo le donne non possono entrare nei templi o nelle moschee, perché questa discriminazione è interreligiosa. Non mangiano certi alimenti, non escono fuori e rimangono confinate in casa, non partecipano alle cerimonie religiose e in molti casi non vanno a scuola. Questo comportamento è diffuso in tutto il paese, perché se le ragazze non hanno delle strutture confortevoli, dei dei bagni che permettono di cambiarsi in tranquillità, diventa difficile mettersi a studiare e seguire lezioni come se niente fosse. Inoltre, in India c'è anche scarsa informazione sul tipo di alimentazione da mantenere e su quello che succede effettivamente al tuo corpo durante il periodo delle mestruazioni. Questo aspetto genera anche dei problemi psicologici, nel senso che non capire quello che ti sta succedendo può essere traumatico. Inoltre, lo stigma arriva al punto che in certe fasce di popolazione non se ne parla mai, perché il ciclo viene considerata una cosa così privata e sporca. (349) 238 6666, WhatsApp, gli SMS, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, per commentare questo, ma anche tutti gli altri temi di Nessun Luogo. Ne approfitto per ricordare che se avete tematiche particolarmente dimenticate o poco affrontate dai media, insomma, saremo felici di ficcarci il naso e accendere i riflettori magari su temi normalmente poco trattati. Un po' alla fine la missione di questo programma. Stiamo raccontando da un lato il tabù nel raccontare, nel mostrare insomma il ciclo. C'è anche un lavoro fotografico che vi racconterò poi più tardi, di un artista e una fotografa. Instagram le chiuse l'account per una serie di foto. C'è appunto un tabù, c'è uno stigma sociale, l'avete sentito, in alcune regioni dell'India molto molto forte. C'è una caduta, una ricaduta economica importantissima, se si pensa che in molti paesi il 50% della popolazione giovane è donna, e se si pensa che in quei giorni le donne smettono di andare a scuola, e quindi si ha un impatto negativo sull'intero sistema educativo che poi diventa produttivo. È la stessa domanda che abbiamo girato a Nitya Daryanani, vediamo se ce la faccio a andare a fine trasmissione a pronunciarlo bene almeno una volta, che è ricercatrice in questa ONG indiana DASRA, che ha compiuto questo studio molto interessante. In che modo lo stop alla scuola e al lavoro dovuto al ciclo mestruale incide sulla vita delle donne indiane? Sentite. Again, a livello nazionale non ci sono dati ai quali è possibile avere accesso. Ci sono dati parziali e studi ai quali abbiamo anche contribuito, che dimostrano per esempio che nelle scuole equipaggiate con toilette adatte la presenza delle ragazze aumenta dell'11% rispetto alle altre. Tutto questo ha molto a che vedere con il concetto di privacy e di stigma, ed entrano in gioco diverse dinamiche, perché quando c'è questa riprovazione generalizzata verso la ragazza che sta attraversando il ciclo, l'ultima cosa che vorrai è essere costretta a usare i bagni comune, a condividere la toilette con un'altra persona. Inoltre c'è l'elemento dell'acqua corrente. Senza quella, una studentessa o una lavoratrice è costretta a portarsi dell'acqua appresso e a dipendere dalla quantità che ha portato con sé dalle 9 del mattino alle 5 del pomeriggio. Ovviamente tutto ciò è incredibilmente antigenico e dannoso per la salute e riduce la libertà di movimento delle donne. Just not a conducive work environment. Come si ripercuote tutto questo sull'economia? Sentite. Having data that sono sempre statistiche molto complicate da ricavare a livello nazionale. Bisogna stare molto attenti nel valutare quando questo stigma ha un impatto diretto sull'economia o quando invece è un elemento di una catena di fattori. Alcuni studi però ci suggeriscono che durante il ciclo mestruale circa il 60% delle ragazze in età da liceo non va a scuola, perdendo tutte le lezioni per una media di 5 giorni al mese. L'impatto in termini di resa scolastica è evidente. Quei 7 giorni, insomma, hanno un impatto che non è soltanto dell'individuo, della donna, ma è anche della comunità e anche della scuola che viene frequentata, ma è anche dell'economia del paese in cui quella donna, quella ragazza vive. Poi c'è tutto l'aspetto invece della salute. Sentite che cosa dice la ricercatrice indiana. Beh, ha un impatto enorme. Questo stigma nei confronti delle mestruazioni comporta, ad esempio, che una ragazza che sta male non sia in grado di riconoscere i sintomi di quello che le sta succedendo, non sia in grado di farsi una prima diagnosi da sola sul suo stato di salute. Inoltre, non sono in grado di capire qual è l'alimentazione migliore durante il ciclo, un elemento questo che in certe aree del paese, colpite dalla malnutrizione, genera diversi problemi. Infine, c'è la questione igienica, ovviamente. L'ignoranza su come comportarsi durante il ciclo mestruale porta all'impiego di panni per arginare il flusso, magari panni che vengono usati più e più volte, e questo ovviamente aumenta il rischio di infezioni. E poi c'è un aspetto che è molto intimo, che però va affrontato. Che tipo di assorbenti impiegano le donne indiane? Sentite, perché questo è molto interessante. La risposta a questa domanda tende ad essere molto soggettiva. Si sta assistendo a molti cambiamenti, ma in generale direi che la maggioranza continua a utilizzare panni. C'è un numero crescente di donne che ormai impiegano gli assorbenti, ma la maggioranza usa i panni. Non vedono la necessità di usare gli assorbenti, in molti casi non possono permetterseli, e ovviamente se l'aspetto igienico viene curato non c'è nulla di sbagliato in questo. E quindi, come avete sentito, c'è anche un aspetto di prodotto che è molto importante, e dopo apriamo quel capitolo perché abbiamo scovato una startup che viene fuori da un incubatore in cui è coinvolto anche l'MIT di Boston, quindi ad alto contenuto tecnologico, che va proprio a colmare quella lacuna che veniva evidenziata dalla ricercatrice indiana. Vorrei però fare un passo indietro. In realtà il passo andrebbe fatto anche temporalmente, risalire a quel gennaio di quest'anno, quando la prossima ospite, Hijab Yashego, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Salve a tutti. Eccola, buongiorno. Allora, scrittrice, collabora con Internazionale, Lo Straniero, Repubblica fra l'altro, il suo ultimo libro, Adua, giunti editore del 2015. Hijab, tu hai scritto questo articolo su Internazionale che qualche piccolo polverone, polverina l'ha un po' sollevata, perché anche tu con la penna hai rotto un tabù e hai iniziato a parlare di mestruazioni in maniera aperta e in maniera molto, molto chiara. È stato difficile farlo? Forse è stato inconsapevole, perché è un argomento che mi ha sempre molto interessato, perché comunque sono una donna e ho le mestruazioni, e quando appunto l'ho proposto, cioè, erano tutti molto interessati, no? Anche un po' divertiti, però ecco, nessuno si immaginava appunto questo polverone, questo grande interesse. Questo articolo ha girato moltissimo, partiva, sì, da un fatto semplice, che gli assorbenti in Italia hanno un IVA del 22%, sì, e sono considerati bene di lusso, e c'era una proposta di legge, la cosiddetta tampon tax, proposta da deputato Civati del Partito Possibile, sì, e la cosa che mi ha colpito è che per un bel po' di giorni questo deputato è stato considerato malissimo da tutti, veniva preso in giro perché proprio per l'amministrazione. E più leggevo, più mi infastidivo, perché non è che stavano insultando sia una persona, ma soprattutto stavano insultando tutte noi donne, perché comunque l'IVA è una cosa seria e le mestruazioni sono una cosa serissima, quindi, perché fa parte del ciclo della vita, è una cosa che riguarda il nostro corpo, quindi tutta questa ironia l'avevo trovata fuori luogo. Ho cominciato a scrivere, sì, e ho scritto partendo da questo punto, per arrivare appunto a quello di cui stavate parlando prima, dell'India, delle ragazze che non riescono ad arrivare appunto a non frequentare la scuola. È successo pure a me. Io in realtà sono fortunata, sono nata in Italia, ma sono anche di origine somala, e andavo in Somalia tantissime volte prima della guerra civile, sì, e i panni li ho usati anch'io, non sempre si trovavano gli assorbenti, conoscevo tantissime ragazze che avevano un problema reale di trovarli e andare a scuola, quindi, e poi l'ho rivisto anche anni dopo questo problema, e quindi in generale ho cercato di fare un articolo abbastanza ironico, anche citando Gloria Steinem, la famosa femminista negli anni 70, sì. Lei aveva fatto un bellissimo un pamphlet un po' polemico dal titolo "Se gli uomini avessero le mestruazioni", e lei dice una cosa, dice cosa accadrebbe se gli uomini avessero le mestruazioni, e lei dice vabbè, le mestruazioni improvvisamente, magicamente diventerebbero un invidiabile evento mascolino di cui vantarsi. e non solo questo, cioè l'ironia della Steinem è abbastanza forte, sorgerebbe certo. Un nuovo istituto nazionale per la dismenorrea o gli uomini si saluterebbero dicendo "oggi ti vedo proprio bene, ci credo, le mie cose", o per esempio convincerebbero le donne che il sesso è più piacevole quando si hanno le proprie cose, insomma tutta una serie di provocazioni per tentare di ristabilire una parità di ruolo. Hijaba, però questa cosa che hai scritto in punta di penna, divertente e divertita, nascondeva un problema di, non dico di stigma, però quasi, no? Quanto, sicuramente un tabù, forse c'è anche una forma di stigma sociale. L'hai trovato in Italia? L'ho trovato sì, sia in Italia sia in Somalia, un po' dappertutto nel mondo, cioè tutto quello che riguarda il corpo femminile fa paura. Basta pensare alle pubblicità, no, degli assorbenti. Io non ho mai capito perché il liquido deve essere blu quando il sangue sappiamo tutti che è rosso, no? Per dire, fa veramente paura parlare di una cosa così semplice. E la cosa che mi ha colpito è stata la reazione a questo articolo, appunto è stato un polverone, sì. Molti mi hanno insultata, ma proprio insultata, non credo. Devo, perché a volte mi succede, ma per gli articoli che riguardano sull'immigrazione, soprattutto. Anche a me, e quello condividiamo la stessa sorte, mi sa. Sì, mi hanno insultato terribilmente, ma c'è stata anche una grandissima solidarietà, e questo articolo l'hanno letto sia le persone che di solito mi seguono, ma anche, non so, la persona alle poste, la signora del bar. Anche chi ti insultava sull'immigrazione, cioè il ciclo è riuscito a mettere d'accordo un po' tutti, destra e sinistra. No. Anche destra e sinistra, ma anche persone che non leggono solitamente internazionale, no? Sì. È un articolo che ha girato moltissimo e le donne si sono sentite finalmente, molte me l'hanno proprio detto, accompagnate in qualcosa che è loro e di cui in qualche modo hanno insegnato alle donne di vergognarsi di queste mestruazioni. Infatti non riusciamo nemmeno a chiamarle col proprio nome, no? Ognuno trova un nomignolo. Sì, c'è questo pudore, insomma, il tabù è proprio questo, non si nomina, non si mostra, non si rappresenta. Io lo chiamavo Guglielmo a scuola perché avevo un libro di letteratura tutto rosso che si chiamava Il Guglielmino Grosso, e le mestruazioni erano Guglielmo. Quindi ci hanno insegnato ad aver vergogna di noi stessi, di qualcosa che è nostro. E quindi io semplicemente, partendo da appunto gli insulti accivati e questa questione serissima della tampon tax, perché gli assorbenti, lo dobbiamo dire, costano, insomma, ho scritto questo articolo. E la cosa divertente è che insieme appunto a insulti o anche solidarietà o anche felicità, ci sono state molte persone che mi consigliavano di usare come si chiama, le coppette vaginali. Sì, che fra l'altro alcune ascoltatrici stavano citando al 349-238-6666, oltre a una serie di altre notazioni, ad esempio l'IVA al 22% è su quasi tutti i prodotti, appunto per questo c'è la battaglia, perché è un prodotto irrinunciabile, fondamentale, e per cui si chiede appunto una riduzione d'IVA. Ringrazio la penna pungente di Hijaba Shebo, scrittrice, ricordo il suo ultimo libro, della Shego e Adua, Giunti Editore 2015. Grazie mille Hijaba, buona giornata e buon lavoro. Grazie, arrivederci. E in questa pagina di Nessun Luogo Lontano non soltanto rompiamo il tabù e ne parliamo, ma vi raccontiamo quelli che sono gli effetti economici, quelle che sono le ricadute sociali, gli impatti delle società, lo avete sentito, non solo africane, non soltanto indiane, non soltanto quelle lontane, ma anche quelle un po' più vicine. Uno degli aspetti, delle conseguenze economiche di alcune lacune, cioè manca il prodotto, manca l'assorbente, è stato riempito da alcuni talenti imprenditoriali. C'è, vi dicevo, questa startup che viene fuori dall'incubatore del Massachusetts Institute of Technology, ma c'è anche ad esempio AfriPads, che è un'altra realtà imprenditoriale africana appunto, che ha venduto fino adesso 750.000 assorbenti in tessuto lavabile ed ecologico, dà lavoro a 150 ugandesi, di cui il 90% sono donne che vengono dalle zone rurali del paese. Un esempio virtuoso questo AfriPads, per mostrare appunto quanto seriamente va preso questo tema. Allora andiamo a raccontarvi la storia di questa startup, è la storia di Grace Kane, che è la CEO, è la cofondatrice di Saati, che è questa startup appunto che si propone cosa? Beh, risolve il problema un po' troppo. Sentite com'è nata l'idea, innanzitutto dalla voce di Grace Kane. So the idea originally came about from Amrita, who's... All'inizio l'idea è venuta da Amrita, una delle fondatrici di Saati. La sua famiglia viene dall'India. Lei lavorava per una multinazionale nella sezione assorbenti. Quando è tornata in India, si è accorta che le sue nonne e i parenti non usavano e non avevano mai usato degli assorbenti. Le è sembrato molto strano, dato che negli Stati Uniti tutte le ragazze li usano. Amrita ha approfondito il tema e ha scoperto che in India è davvero un grave problema. Le donne non hanno accesso agli assorbenti. Questo fa sì che le ragazze non vadino a scuola quando hanno il ciclo e provoca anche problemi di salute. Io e l'altra fondatrice, Kristen, mentre studiavamo ingegneria meccanica al MIT, abbiamo pensato di creare un macchinario per costruire assorbenti low cost per le donne che vivono nelle zone rurali dell'India. Poi abbiamo scoperto che altri avevano già avuto quest'idea e che anche il governo indiano distribuiva assorbenti. Ma fornire assorbenti alle donne che abitano in campagna crea un grande impatto ambientale. Vuol dire portare materiali chimici, plastica e altro in luoghi dove mancano le strutture per smaltire questo tipo di rifiuti. Ci siamo accorti che le donne bruciavano o seppellivano gli assorbenti dietro casa. Quindi abbiamo deciso di fabbricare assorbenti economici ma biodegradabili. Abbiamo scoperto la fibra di banana, è un rifiuto agricolo. Quando la banana viene raccolta, l'albero viene abbattuto e scartato. Ma in realtà il banano ha un sacco di materiali utili che, se trattati in modo appropriato, possono trasformarsi in una sorta di lanugine simile al cotone. Il nome in hindi, la traduzione di Saati è compagno, anche qui c'è un pizzico di ironia se volete. Grace Kane è la voce che state sentendo, che è l'amministratore delegato e la cofondatrice di questa startup, e siccome l'adagio business is business non mente mai, abbiamo chiesto quanto ci guadagnate. Allora, il prezzo di vendita in India è di 6 rupie per assorbente, sono circa 8 centesimi di euro. Dobbiamo venderlo a un prezzo leggermente più alto rispetto a un assorbente molto economico. Adesso lo vendiamo al costo di produzione a una ONG che ne finanzia la distribuzione nelle aree rurali. Per produrre Saati e venderlo a prezzi più bassi servono dei finanziamenti, perché il materiale necessario è più costoso di quello usato per un normale assorbente. In futuro vogliamo che il nostro prodotto sia disponibile anche per le donne cittadine. C'è molto interesse da parte loro, perché le donne che vivono in città sono generalmente più consapevoli dei problemi ambientali e vogliono comprare prodotti eco-friendly. Quindi la nostra idea è di vendere gli assorbenti destinati ai consumatori urbani a un prezzo maggiore. Così possiamo finanziare la produzione dei nostri prodotti nelle aree rurali. E questo è il racconto di questa startup, si chiama Saati, compagno o amico se preferite, produce assorbenti per il mercato indiano, lì dove lo stigma rispetto alle mestruazioni è forte, lì dove la ricaduta, l'impatto economico per quelle ragazze, donne che devono abbandonare il sistema scolastico o quantomeno sottrarsi per alcuni giorni diventa importante. Ma c'è un mercato per questa startup anche al di fuori dell'India, sentite che cosa dice Grace Kane. Sì, penso che ci sia una grande domanda. Le persone ci chiedono, potete esportarli negli Stati Uniti, in Canada o in Olanda? Credo che ci sia davvero la possibilità di espandere il nostro mercato. L'inizio di questa trasmissione è stata questa nuotatrice cinese che rompeva il tabù e di fronte alle telecamere della CCTV, la TV di Stato cinese, diceva scusate, ho dolori al basso ventre perché questa notte mi sono venute le mestruazioni, comunque non è una scusa, potevo nuotare meglio. Insomma, però in quella ripresa in diretta c'è stata la rottura di un tabù. Quello stesso tabù come è percepito nelle zone rurali dell'India, come è percepito dagli abitanti del villaggio? Sentite ancora Grace Kane. Stiamo collaborando con una ONG per fare dei progetti educativi. Pensiamo che sia importante perché ci sono un sacco di tabù sull'argomento mestruazioni. Abbiamo riscontrato differenze da villaggio a villaggio. In alcuni sono già passate delle squadre governative composte da personale del settore sanitario. Loro hanno educato le donne riguardo alle corrette pratiche igieniche e le mestruazioni. In questi villaggi le donne erano più tranquille a parlare del ciclo e sono state entusiaste dei nostri assorbenti. Spesso sanno cosa sono gli assorbenti, ma non possono permetterseli o non sanno come smaltirli. Quindi, prima di parlare del ciclo, è davvero necessario rompere il ghiaccio con programmi educativi. E se l'idea, non soltanto che ha un sociale, ma anche un'idea di business, è germogliata all'interno di quei celebri laboratori dell'MIT di Boston, beh, poi alla fine l'impianto produttivo è in India. Sentite dove vengono prodotti questi assorbenti. Abbiamo una fabbrica a Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat. Adesso la catena di montaggio impegna 5 persone che producono dai 6.000 ai 10.000 assorbenti al giorno. Ma abbiamo in programma di espandere la produzione. La fibra di banana di cui parlavo viene acquistata da contadini locali. Questo genera loro una fonte di guadagno extra. Vi stiamo raccontando le ricadute, l'impatto economico e sociale di un non corretto accesso a dispositivi di igiene personale, gli assorbenti, una non corretta educazione sanitaria, partendo da quel tabù che viene rotto, da quello stigma sociale. Stavo citando, vi ricordate, a inizio trasmissione, di quella fotografia, di quella serie in realtà fotografica, era stata pubblicata su Instagram. Era Rupi Kaur, era una poetessa Sikh che studia all'Università di Waterloo in Canada, e aveva postato la foto di una ragazza appunto con le mestruazioni, e poco dopo il controllo di Instagram aveva rimosso quell'immagine perché non in linea con le politiche adottate dal social network, con levata di scudi da parecchie parti, perché mentre altre immagini ugualmente forti, se volete, perché attengono alla sessualità, invece possono tranquillamente vivere nel social fotografico, appunto Instagram. Adesso abbiamo parlato di economia, sentiamo come va la borsa, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema Digital Radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto, grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo È Lontano. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo È Lontano. Vi stiamo raccontando quanto l'assenteismo scolastico dovuto al ciclo mestruale, quanto quei giorni possano incidere non solo sulla formazione delle ragazze e delle donne nel mondo, in particolare in alcune aree, ma come incidono anche sull'economia. Vi sono svariati studi che stimano che per ogni 1% in più di donne con un'educazione secondaria ultimata, si stima che il PIL pro capite potrebbe aumentare dello 0,3%. Questo per dare un'idea di come più le ragazze possono andare a scuola, più evidentemente cresce il sistema scolastico, ma cresce anche il sistema economico. Perché non possono andare a scuola in quei giorni? Perché non hanno assorbenti, perché se li hanno sono raffazzonati, non sono igienicamente compatibili, perché non vi sono bagni, separati. Abbiamo raccontato alcuni casi in India e in Africa, ma vi sono anche casi virtuosi, come quelli incubati dal Massachusetts Institute of Technology, questa startup che si chiama Sati e che produce questi assorbenti, che sta lanciando nel mercato indiano. La stessa startup ha lanciato un crowdfunding per finanziare un nuovo progetto, e sentite di cosa si tratta. This is about a partnership that we're... È una collaborazione che stiamo facendo con Aikal Foundation, una ONG indiana. Stiamo formando un team per fornire 1 milione dei nostri assorbenti alle ragazze dei villaggi. Il nostro scopo è dimostrare qual è l'impatto di una distribuzione capillare degli assorbenti. Oltre a fornire i nostri prodotti, organizziamo anche dei programmi educativi. In alcuni villaggi stiamo creando dei team a cui insegniamo come trasformare gli assorbenti in compost da utilizzare come fertilizzante. Nel corso dell'anno calcoleremo gli effetti di questo progetto sul livello di istruzione e di salute delle ragazze. Per introdurre l'uso degli assorbenti non basta distribuirli nei villaggi. Quindi quello che vogliamo fare è avere a disposizione un team da dislocare in tutta l'India per diffondere l'uso degli assorbenti nelle zone rurali. Allora, 349-238-6666, ci sono un paio di domande a cui cerco di rispondere. Un ascoltatore o ascoltatrice dice: non si potrebbero commercializzare assorbenti e pannolini biodegradabili anche in Occidente? In realtà ci sono assorbenti compostabili, cercateli, li trovate su internet molto facilmente, il costo è circa di 5 euro per una confezione. Poi Silvano che dice: in India le donne si adornano con oro e non trovano i soldi per gli assorbenti. Forse Silvano fa riferimento alle occasioni di matrimonio, quindi quelle occasioni di festa, in cui le donne attingono a questa specie di dote fatta di gioielli e per quel giorno lì esibiscono ricchezza ed eleganza, ma poi quei gioielli se li tolgono e tornano a far parte di questa dote. Silvano, se questo tema le interessa, mi scriva ancora, cerchiamo di indagarlo meglio. 349-238-6666. Torniamo però all'impatto scolastico di quei pochi giorni di ciclo in cui le ragazze non riescono materialmente ad andare a scuola. Sentite ancora che cosa dice la portavoce di questa startup. Le ragazze sono nervose quando devono andare a scuola e hanno il ciclo. Molte di loro preferiscono saltare un giorno di lezioni quando hanno le mestruazioni. In molte strutture non ci sono bagni e questo è un problema, soprattutto per le ragazze che quando hanno il ciclo non possono cambiarsi i vestiti o l'assorbente. Vi do un altro dato che credo sia molto indicativo e molto importante. Le ragazze che abbiano un'istruzione di secondo grado potrebbero far aumentare il PIL grazie al loro maggiore studio, quindi maggiore qualificazione e quindi maggiore produttività nel mondo del lavoro del 6,8%. A proposito di crescita, sentite ancora Grace Kane dell'ultima domanda che le abbiamo fatto: quali piani hanno per far crescere la startup nel futuro? Dopo questo progetto pilota, vogliamo partire con il modello di produzione differenziato tra città e zone rurali e trovare finanziamenti per la nostra azienda. Per quanto riguarda il progetto educativo e la collaborazione con la ONG, che prenderà vita l'anno prossimo, stiamo cercando di raccogliere $200,000. Ne abbiamo già ottenuti la metà. Con la campagna di crowdfunding raccoglieremo i rimanenti. E con questa storia di questa startup indiana che lavora sugli assorbenti, nasce dall'MIT, poi va a lavorare in India proprio per cercare di risolvere questo problema di tabù, di stigma, ma anche e soprattutto sociale, economico e sanitario, si chiude la prima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Adesso ci occupiamo un po' di più della stretta attualità, nella fattispecie politica, e andiamo in Spagna. Vi porto in Spagna perché c'è da chiedersi: c'è luce in fondo al tunnel? Il tunnel è quello di una crisi politica che dura da otto mesi. La luce è quella dei liberali, un partito che vale il 13 e qualcosa per cento. I popolari di Rajoy sono infatti costretti a dialogare con Alberto Rivera. I voti di fiducia sono previsti per il 31 agosto e, nel caso se vi fosse un no, il 2 settembre. Se non ci sarà la fiducia, che cosa accade? Si va a votare di nuovo? Questa è la domanda che giro immediatamente a Luca Veronese del Sole 24 Ore. Buongiorno Luca, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a tutti. Sì, in effetti sembra incredibile, ma la Spagna sembra avviata a un terzo voto, sembra proprio il giorno di Natale. Questa almeno è l'opzione più probabile. Se qualcuno dovesse scommettere un euro sull'evoluzione della situazione politica spagnola, forse questo sarebbe l'euro da spendere più probabilmente, no? Sì. Perché sì, c'è stata un'apertura, come dicevi, di Ciudadanos, questo movimento centrista molto, molto focalizzato sull'anticorruzione, sull'apertura al mercato dell'economia, ma Rajoy, il popolare Rajoy, il premier incaricato di formare il governo dopo le elezioni, e anche con i voti di Ciudadanos, dei liberisti Ciudadanos, non arriverebbe alla maggioranza assoluta. E quindi si apre la partita con i socialisti, che sono i veri diciamo padroni del destino politico della Spagna in questo momento. Sì. Socialisti, ago della bilancia, se si formasse il nuovo governo in tempi rapidi, non Natale insomma, ma con la fiducia di fine agosto, le priorità del nuovo governo, aiutaci a capire per sommi capi, politica interna, politica estera, che cosa potrebbe cambiare? Allora, il governo Rajoy negli ultimi 4 anni ha dovuto risanare e stabilizzare un paese che era in gravissima difficoltà, come sappiamo. Lo ha fatto seguendo in modo proprio alla lettera le indicazioni che venivano dall'Unione Europea e dai suoi alleati tedeschi. Ricordiamo che sono nella stessa famiglia politica in Europa con Angela Merkel. E quindi ha seguito tutti i modelli di austerity imposti dall'Unione Europea e dalla Troica. Il risanamento è avvenuto con gravi e pesanti tagli lineari nei ministeri, ma anche alla sfera sociale, alla dotazione delle regioni e via dicendo. Quindi per dire che anche nei prossimi 4 anni, pur con una marcata ormai attenzione allo sviluppo e alla crescita più invece che a rigore di bilancio, la tendenza sarà probabilmente quella. In politica interna sono sicuramente da rivedere appunto i conti pubblici, con un warning pesante messo dalla Commissione Europea, e sul deficit che continua a essere ben al di sopra del 3% stabilito dai trattati. Sì. E poi una riforma del lavoro che è ancora zoppica, probabilmente dovrà essere ancora rimodulata. Sì. Nella politica estera l'europeismo convinto di tutta la Spagna è presente in tutti i partiti, da destra a sinistra non c'è un partito che è contrario all'Europa, perfino i movimenti nazionalisti locali in Catalogna, nei Paesi Baschi, sono favorevoli comunque alla permanenza in Europa qualora dovessero separarsi. Quindi non è in dubbio la linea politica verso l'Europa della Spagna, e in tutta la materia di politica estera Rajoy tenderà ad accodarsi alla Germania e all'Unione Europea. Sì. Luca Veronesi, l'ultima domanda in chiusura di questa pagina tutta spagnola di Nessun Luogo Lontano. Hai citato incidentalmente dossier Catalogna, quello che insomma politicamente è stato assai vivo negli ultimi tempi. Quello come viene archiviato o ritirato fuori dal possibile nuovo governo Rajoy? Allora, i due partiti che in questo momento sembrano centrali nella formazione del nuovo governo, sì, per appunto i Popolari e Ciudadanos, sono due partiti. L'uno, i Popolari, tradizionalmente da sempre contrari a toccare lo Stato e l'integrità dello Stato. Ciudadanos è nato addirittura a Barcellona proprio per contrastare le forze separatiste, è l'unico vero partito unionista. Sì. Quindi in questa prospettiva lo scontro fra Barcellona e Madrid sarà totale. Barcellona sta andando pesantemente avanti in questi mesi, presentando un piano per arrivare alla separazione, all'indipendenza, forse approfittando anche del vuoto di potere a Madrid. Sì. Lo scontro diventerà frontale, per quanto ancora all'interno delle leggi dello Stato e del sistema democratico spagnolo. Sì. E poche possibilità a Madrid di trovare alleati per la Catalogna, molta forza nella regione che sappiamo quando viene contrastata nelle sue rivendicazioni diventa ancora più vogliosa di separarsi. Questo sarà un po' lo scenario. Grazie mille per lo scenario che ha tratteggiato Luca Veronese, lo leggete sul Sole 24 Ore. Buona giornata, buon lavoro Luca. Noi adesso andiamo sulle strade italiane e poi cambiamo decisamente argomento. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, è l'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Sapete che oggi è la giornata mondiale della fotografia. Beh, qualche anno fa c'era già qualcuno che diceva beh, adesso è ora di celebrare il funerale per la fotografia, questo mezzo che ormai non funziona più, i giornali si vendono sempre meno, i fotografi non ce la fanno più a campare. Invece oggi, invece che celebrare un funerale, la fotografia ha celebrato la vita, ritraendo un bambino vivo dopo un bombardamento ad Aleppo. Oh. Oggi il New York Times, ma anche in Italia La Stampa, Repubblica, Il Giornale, Il Corriere della Sera hanno aperto con la foto di Omran, il bambino siriano di 5 anni sopravvissuto a un bombardamento russo sulla sua casa di Aleppo. Perché quella foto ha fatto il giro del mondo già ieri in rete? Perché tutti i quotidiani hanno scelto quella foto lì? Quali sono gli ingredienti di quella foto? Sentite Alessia Glaviano, senior photo editor di Vogue, due volte giuria del World Press Photo, perché Alessia tutti hanno deciso di aprire con la stessa foto. Immediatamente assumono un valore iconico, altre che lo acquisiscono nel tempo insieme alla storia. Sicuramente la foto di Omran insieme a quella di Aylan Kurdi sono diventate un simbolo delle tragedie dell'ultimo anno e quindi ovviamente i giornali ovunque hanno subito capito questa cosa e l'hanno pubblicata. Ti dirò, io sono anche molto contraria alle critiche che vengono sempre fatte rispetto a questo utilizzo delle immagini come se fosse blasfemo, come se alla fine tutto venga inghiottito nel mare magnum del social e delle news che si rincorrono una con l'altra. È vero che esiste un pericolo di banalizzazione, trivializzazione di queste immagini, l'abbiamo visto quello che è accaduto con Aylan Kurdi, nel senso che poi sono state fatte vignette di questo, di quello, però se ci pensi è pericoloso anche il contrario, nel senso che allora che cosa dovremmo fare? Non dovremmo più assolutamente mostrare nulla con l'idea che comunque non serve a niente, cioè mi sembra un po' un discorso alla fine disfattista. Sì. Cioè, io credo che sono importantissimi documenti, che la potenza della foto di Omran, come quella di Aylan Kurdi, è nella singolarità e quindi mentre tutti i giorni sentiamo statistiche, vediamo foto di masse che si muovono di senza nomi, capisci? Sì. Quando invece tu focalizzi l'attenzione su una singola persona che ha un nome e cognome, che ha una storia, che anche a livello empatico vedi come riesce, ti rispecchi, lo vedi come uno di noi, capito? Perché poi alla fine, però c'è un aspetto. Non so se sei d'accordo, Alessia Glaviano, sono bambini, in entrambi i casi che stiamo citando sono bambini, non c'è una forma di, come dire, piacioneria nel sapere che il bambino commuoverà e provocherà tenerezza. No, io sai, io nella mia posizione ti devo assolutamente contraddire in questo, cioè nel senso, di nuovo, sono convinta che c'è chi probabilmente utilizza, cioè fa un uso dell'immagine pensando a questo, dall'altra parte io ti dico, il bambino diventa un simbolo potentissimo, perché il bambino è quello che più di chiunque non ha nessuna colpa, capisci? È proprio la purezza violata da questa tragedia. Violata completamente. Questa foto di Omran che io ho visto ieri a me ha fatto veramente, cioè, venire le lacrime. Ho trovato allucinante questo sguardo nel vuoto, anche il video, il movimento con la manina. Cioè, un'immagine veramente incredibilmente forte. Sì. Alessia, l'ultima cosa su cui però vorrei sollecitarti è questa. Domani ci saremo quasi tutti dimenticati di questa foto, oppure questa volta è più forte, allora non ci saremo dimenticati nemmeno di Aleppo, quell'Aleppo che sta dietro a quel bambino? Guarda, io purtroppo su questa cosa non ho una visione molto positiva, cioè nel senso che mi sembra che anche quando l'opinione pubblica si muove, se tu ben ricordi, beh, innanzitutto ieri ci sono già state, dopo quella foto lì, adesso non so se per quella foto lì o meno, però è stato dato un cessate il fuoco, no? Se ci pensi, quindi probabilmente anche quella cosa, cioè certo sotto richiesta dell'ONU, però è stato concesso. All'epoca di Aylan Kurdi, dopo la foto di Aylan Kurdi, la Germania immediatamente aveva cambiato la sua politica nei confronti dell'immigrazione. Sì. Il problema è che, come tu ben sai, e sai meglio di me, esistono degli equilibri geopolitici, esistono degli interessi economici, okay, che sovrastano un po' tutto, sì, e che sono quelli che poi dettano le scelte, forse ancora più dell'opinione pubblica. Sì. Che ci sia un po', purtroppo, ormai questa visione memoria da pesce negli esseri umani, per cui uno vede una cosa, si fa il piantino e poi il giorno dopo è tutto come prima. Però sai cosa c'è anche? Se ci pensi, è tutto diventato talmente complicato che anche schierarsi da una parte o dall'altra è difficile. Cioè io mi metto anche nei panni di una persona che vede una foto del genere e dice: ma che cosa posso fare io, no? Cioè ti senti quasi paralizzato. Sì, c'è poi un'impotenza anche insomma del singolo, dell'individuo. Insomma, no, questo, ma è anche, questo non c'è dubbio. Poi è giusto invece mobilitarsi e cercare di farsi sentire, perché quello che sta accadendo in Siria è una tragedia disumana da anni, ma come quello che accade ai migranti tutti i giorni quando cercano di arrivare in Europa. Io trovo tutto questo disgustoso. Può un'immagine come quella contribuire a rompere il silenzio e a risvegliare le coscienze? Beh, sicuramente nel breve periodo lo sta facendo. Campeggia in tutte le prime pagine di tutti i giornali di mezzo mondo quel bimbo che ancora non lo sa, chissà tra qualche anno se uscirà vivo da quell'Aleppo e potrà riguardarsi, chissà che cosa penserà. Chi è uscito vivo da quell'Aleppo un paio di anni fa, e non è banale, è Ruben Lagattolla. Buongiorno, documentarista indipendente. Buongiorno Ruben, benvenuto nel suo luogo lontano. Buongiorno, grazie. Allora, sono due modi per rompere il silenzio per chi fa il giornalista, il filmmaker, l'operatore, il fotografo, è andare lì e ficcare un po' il naso. Sentite cosa ha fatto Ruben Lagattolla. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ha raccontato i giovani reporter di Halab News, che è un manipolo di giovani temerari e coraggiosissimi giornalisti che raccontano quello che succede ad Aleppo quotidianamente, armati delle loro fotocamere, delle loro telecamere, e appunto raccontavano quello che succedeva. È il cuore di Young Syrian Lenses, che è un documentario confezionato appunto da Ruben Lagattolla, che ha deciso di fare una cosa proprio quest'oggi. Infatti noi l'abbiamo scovato scavando appunto nei social network. Hai reso, Ruben, il tuo documentario accessibile a tutti su Vimeo, potete cercarlo, per 48 ore. Perché? Sì, perché in questi giorni si parla moltissimo di Siria e se ne parla bene, ma se ne parla anche molto male, secondo me. E io credo che la testimonianza prima sia quella di chi c'è stato, e noi abbiamo cercato di raccontarlo, io, Enea Discepoli e Filippo Biangianti, abbiamo cercato di raccontarlo dall'interno senza mettere filtri o senza mettere commenti giornalistici, insomma è un lavoro documentario. E questo alla fine è un documento che apertamente mostra diversi aspetti. Uno era che un interlocutore che non fosse un fanatico religioso ce l'avevamo, e avevamo l'opportunità di averlo al nostro fianco, diciamo tra virgolette. E due, documenta i crimini di guerra del regime di Assad, che ancora oggi vergognosamente moltissime persone, tra cui anche giornalisti, negano, semplicemente. Questo credo sia una vergogna. Noi abbiamo deciso di pubblicarlo gratuitamente e di renderlo disponibile almeno fino a domenica sera, domenica notte, perché poi è comunque un prodotto che abbiamo fatto sotto il nostro lavoro, non è lavoro volontario, ma insomma pur sempre lavoro è, per cui dopodiché speriamo magari di continuare ad essere invitati in giro per l'Italia e non solo, per fare delle proiezioni e dibattere della questione. Sì. Young Syrian Lenses, Ruben, è stato fra l'altro premiato, insomma avete ricevuto parecchi riconoscimenti. Siamo in chiusura, però una curiosità ce l'ho. Come vi è venuta l'idea di creare questo cortocircuito? Un videomaker, un regista che va a raccontare un suo collega dentro quella situazione di Aleppo? Velocissimo, se puoi. Guarda, la storia è assurda, perché in realtà siamo partiti con Enea Discepoli per fare una mostra fotografica, io volevo documentare quella, e è stata la mia prima esperienza in un'area di conflitto. In realtà ho esperienze pregresse in Iraq, ma non dirette di conflitto così aperto. Invece della mostra, perché il luogo scelto è stato bombardato, ho deciso di seguire il lavoro di queste persone. È una storia assurda di per sé, però che alla fine ha dell'autentico, per cui vale la pena. Se volete buttarci l'occhio, Halab News è questo team che Ruben Lagattolla insieme ai suoi colleghi ha raccontato. Il documentario si chiama Young Syrian Lenses, lo postiamo adesso sulla pagina Facebook, postiamo il link. Ancora 48 ore per riaccendere i riflettori su Aleppo, sulla Siria, e ribilanciare, diceva Ruben, una retorica che ha dimenticato che anche dall'altra parte i cosiddetti buoni crimini li hanno commessi e continuano a commetterli in guerra. Buoni e cattivi, mi sa che ce ne sono molto pochi. Grazie mille Ruben Lagattolla, buona giornata e buon lavoro. Noi di corsa, titoli di coda, via. Con i quali ringrazio Silvia Mannati, Eleonora Aragona, Antonio Taglia, che hanno confezionato con me questa puntata, Andrea Roccabella, che l'ha punteggiata magistralmente con la musica. Voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è per questa sera ore 21 con la replica. Domani mattina alle ore 9 il meglio di, e poi se avete voglia dopo il weekend siamo di nuovo qua. Ore 16, lunedì, Nessun Luogo Lontano. Un buon weekend da Giampaolo Musumeci.